giovedì 11 ottobre effettivamente c'è la scelta o della legge di stabilità analizzata più in dettaglio, come oggi il Sole 24 Ore fa in numerose pagine, stretta su detrazioni e oneri deducibili, questo è il titolo di apertura di prima pagina, oppure il Secolo XIX, chi paga i tagli del governo, e il Manifesto, la media del 6.000, e 6.000 sono per la verità 6.400 insegnanti precari che per il Manifesto perderanno il posto con la legge di stabilità. Poi c'è la gran carrellata di titoli sugli scandali nelle regioni, soprattutto in Lombardia. Assessore in cella Formigoni in bilico, così titola il Corriere della Sera. Per Repubblica, l'Andrangheta al Pirellone. Il Giornale, qui viene giù tutto, la Tangentopoli federalista. Il Fatto Quotidiano, la grande retata Milano-Roma-Reggio Calabria. La Stampa, Lombardia e manette in regione. Il Messaggero, Lombardia, l'Andrangheta in regione. Libero, qui va giù la Lombardia. Avvenire, regioni, non si ferma lo tsunami giudiziario. L'Unità, voti mafiosi, basta Formigoni. Mentre il Giorno, il quotidiano nazionale edizione del Nord, mette la foto di Domenico Zambetti, l'assessore arrestato, Don Mimmo. Questo è il titolo di apertura. A proposito di regioni, c'è anche la vicenda del capogruppo IDV del Lazio, ma voglio partire proprio da due notizie che riguardano il più celebre consigliere o ex consigliere regionale, bisogna dire, Franco Fiorito, in carcere, detto Air Batman, perché ci sono due notizie che lo riguardano, tra l'altro due notizie contrastanti. La prima è sul Corriere della Sera, un trafiletto per la verità, pagina 9. Franco Fiorito non è più consigliere regionale. Per molti questa sarà una buona notizia, perché c'è stato un decreto del Presidente del Consiglio Mario Monti con il quale Franco Fiorito è stato sospeso dalla carica di consigliere del Lazio. Lo scrive Fulvio Fiano. La decisione decorre dal 1 ottobre, da quella data l'ex capogruppo del PDL in carcere con l'accusa di peculato non percepirà più stipendio e indennità relative alle cariche ricoperte alla Pisana. Non è per la verità l'unica brutta notizia per Fiorito, al quale ieri è stato respinto l'istanza di scarcerazione, perché la procura ha ascoltato come persona informata dei fatti Stefano Galetto, oggi toccherà nella stessa veste Romolo Del Balzo, poi Ernesto Irmici, Andrea Bernaudo, cioè i membri della commissione bilancio del gruppo PDL, quelli che secondo Fiorito erano a conoscenza delle modalità con le quali mi attribuivo la cosiddetta tripla quota, lui li ha chiamati in causa. Quindi Fiorito non è più consigliere regionale, eppure uno va su Libero e trova una notizia firma Fosca Binker, sempre il vice direttore, Franco Bechis, che si firma ogni tanto con questo anagramma del suo nome e cognome. Senza fondo, questo è il titolo, Fiorito fa la vittima e chiede il reintegro. Ma come chiede il reintegro? Ebbene sì, Batman ricorre in tribunale per tornare capogruppo del Popolo della Libertà. Sentite cosa scrive Fosca Binker. La notifica è avvenuta quasi in contemporanea, la mattina del 1 ottobre scorso. Quel giorno all'alba i finanzieri si sono presentati in una delle tante case di Fiorito per eseguire l'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Appena qualche ora dopo, la stessa mattina, l'ufficiale giudiziario bussava alla porta del gruppo del PDL alla Regione Lazio, e quando i legali del nuovo capogruppo, Chiara Colosimo, hanno aperto la busta, si sono increduli stropicciati gli occhi. L'atto notificato portava la firma dello studio legale Rosati di Roma e aveva per oggetto un ricorso sull'impugnazione di una delibera. Tradotto in parole povere, uscendo dal giuridichese, vuol dire questo: lo studio legale rappresentava Fiorito che con quell'atto richiedeva l'annullamento della sua destituzione avvenuta il 24 luglio scorso e l'immediata reintegra alla guida del gruppo PDL del Lazio, naturalmente anche a quel che ancora restava del tesoretto trasferito al gruppo dal Consiglio regionale del Lazio. Dunque, una vicenda dai contorni grotteschi, scrive Fosca Binker. Fiorito fa la vittima e chiede il reintegro, ricorre in tribunale per tornare capogruppo del PDL. La prima udienza è stata fissata, si è già fatta tra l'altro, si è conclusa con un rinvio con lui che intanto è finito in cella. Insomma, è decaduto da consigliere, chiede il reintegro a capogruppo del PDL, questo Franco Fiorito. Mentre un altro italiano che molti italiani hanno imparato anche con questo sentimento umano a odiare, sbagliando no, giudicate voi, vale a dire il comandante più celebre d'Italia e del mondo, Francesco Schettino, è molto arrabbiato, affida poche parole al secolo XIX, è molto arrabbiato perché la notizia del suo licenziamento, al quale lui ha fatto ricorso a un giudice del lavoro, doveva rimanere riservata. Era una notizia di luglio, la Costa Crociere lo ha licenziato e Schettino ora accusa, scrive il secolo XIX, violato il segreto istruttorio sul mio licenziamento. Trovate a pagina 9 con Francesco Margiocco qualche frase. Mi domando chi abbia fatto uscire questa notizia. Così dalla sua casa di Meta di Sorrento l'ex capitano della Costa Concordia dice e commenta la notizia del suo licenziamento avvenuto a luglio. Perché divulgare tutto proprio ora? Forse perché tra 4 giorni ci sarà in tribunale l'incidente probatorio? Io ci metterò la faccia, andrò lì con la mia competenza quando si discuterà dei dati della scatola nera. Tra l'altro, dice Schettino al secolo XIX, io ormai mi fido solo di me stesso, della mia ombra e dei miei avvocati. Ho fatto ricorso contro il licenziamento perché è un diritto di ogni lavoratore, soprattutto quando questo avviene senza i dovuti accertamenti. L'ho fatto ora e non dopo la sentenza del processo perché sarebbero decaduti i termini. Però certo, sia il Quotidiano Nazionale attacca Schettino, fa causa contro il licenziamento, ma il più duro è Libero. Con una pagina a pagina 17, 32 morti e Schettino vuole pure i danni. Capitan Codardo, così è soprannominato da Libero, impugna il licenziamento di Costa Crociere. Non c'è giusta causa e chiede il reintegro e gli arretrati. Effettivamente fa sapere il secolo XIX che è vero, ha voluto anche gli arretrati. E si fa difendere da un esperto di diritto del lavoro per i dipendenti delle società marittime che definisce un mio amico e ha detto di essere in attesa dalla cassa dei lavoratori marittimi del trattamento delle indennità che a suo dire gli spettano per alcuni giorni di malattia dovuti a dolori intestinali. Così il comandante Francesco Schettino, che torna protagonista sui giornali di oggi. Ci risentiamo tra 5 minuti. Eccoci qua, allora, come dire, le due grandi notizie sui giornali, le due più importanti notizie sono l'analisi della legge di stabilità e per questo dovete leggere il Sole 24 Ore perché oggi ha diverse pagine dedicate a un provvedimento d'altronde così complesso, non c'è solo l'IRPEF e l'IVA, vale a dire la detrazione di un punto percentuale IRPEF per le due aliquote più basse e l'aumento di un punto percentuale da luglio dell'anno prossimo dell'IVA, ma ci sono tutti i temi sulle oneri deducibili, la scuola, gli statali, la ricerca, la sanità, la giustizia, insomma 10 punti in totale che sono riepilogati in prima pagina del Sole 24 Ore e poi analizzati in dettaglio punto per punto in diverse pagine all'interno. Tra l'altro la manovra, fa sapere Dino Pesole a pagina 5, sale a quota 13 miliardi. 13 miliardi perché? Perché la carta riserva di riserva della legge di stabilità, scrive Pesole, vale 3 miliardi e si deve a che cosa? Allo scostamento dello 0,2% del PIL tra il valore del deficit tendenziale e quello programmato. Dunque si sono recuperati 3 miliardi così, sfruttando questo scostamento tra il deficit tendenziale e quello programmato. Certo, c'è da dire che il giallo con cui ci si è lasciati nella notte dell'approvazione della legge di stabilità è questo: l'aumento dell'IVA da una parte e la detrazione IRPEF dall'altra. Allora, come la vedono i giornali? Bicchiere mezzo vuoto, perché c'è l'aumento dell'IVA e dunque questo si riverserà come spese sui consumi degli italiani. Il Corriere quantifica in una spesa media di 324 euro aggiuntiva per le famiglie italiane, oppure però c'è da dire che da una parte hanno tolto l'IRPEF per le aliquote più basse di un punto percentuale, quindi bicchiere mezzo pieno. Beh, il premier Mario Monti la vede così, ma è inevitabile. Racconta sempre Dino Pesole a pagina 3 del Sole: il taglio IRPEF mostra che il rigore di bilancio paga. Oggi possiamo vedere e toccare con mano che la disciplina di bilancio paga perché ci ha consentito di non rincorrere di continuo la congiuntura e che ci si può permettere qualche moderato sollievo. C'è stato anche tutto il giallo legato, tra l'altro detto per inciso, a pagina 8 il Sole fa un calcolo di tutte le fasce di reddito da 5.000 fino a 62.000 e come può incidere in risparmio in euro questa detrazione dell'IRPEF. Si va da 50 euro di risparmio per chi ha una fascia di reddito di 5.000 euro fino a 280 euro di risparmio per chi ha una fascia di reddito di guadagno di 62.000 euro. Quindi una media è lo sconto, il taglio dell'IRPEF porta a uno sconto del 4% medio per i redditi bassi e il risparmio per i contribuenti varierà appunto da un minimo di 50 euro a un massimo di 280 euro. C'è appunto tutto il giallo legato al sottosegretario Polillo. Sapete che c'è stata una vera e propria anche quasi rissa e ressa, perché Polillo a Ballarò ha detto questa cosa: taglieranno in queste ore al Consiglio dei Ministri l'IRPEF. Subito è arrivato una smentita del Consiglio dei Ministri e poi nella notte invece c'è stato questo taglio. Allora Polillo ovviamente si è fregiato di questa cosa dicendo: vedete, io ve l'avevo detto, semplicemente i tempi televisivi hanno anticipato i tempi della discussione politica in Consiglio dei Ministri. Libero invece la pone così: colpo basso nella notte. Vengono ridotte anche le agevolazioni sulle abitazioni, sulle altre spese, non solo, aumentano anche l'IVA. Insomma, ogni giornale la pone in maniera diversa. Il Foglio, c'è un commento di Giuliano Ferrara in prima pagina e pone proprio l'accento su questa cronologia anche degli eventi. Un sottosegretario ospite a Ballarò, Polillo, ha fatto una sorpresina. In queste ore ha detto: Monti e Grilli stanno facendo calare le aliquote IRPEF. E tutti, in primo luogo il sindacalista Angeletti, hanno rimesso in tasca le unghiate solidariste. Monti ha saputo della propalazione TV di Polillo e si è incazzato bonariamente. Antonio Catricalà ha smentito Polillo. Tutti addosso al povero ciarliero sottosegretario sputtanato in tempo reale. Pollaio in studio, i tecnici fanno schifo, lei è un po' cialtrone, il paese non cresce, il popolo geme. Il sottosegretario ha cercato invano di tenere il punto con dignità. Poi tutti a letto, soddisfatti della riprovazione sociale esibita. Particolare gustoso, il taglio dell'IRPEF era stato davvero deciso. In studio tante geremia di per nulla, capolavoro di understatement e di ironia. Il governo non comunica nei talk show, voi fate il vostro chicchirichì, noi tagliamo le tasse a 30 milioni di italiani, prego. Questo è il commento di Giuliano Ferrara, preside pur decide, sul Foglio. Ma ci sono tutti i giornali commentano proprio questa performance di Polillo, che tra l'altro è noto anche per aver detto altre cose in passato che poi sono state parzialmente smentite. Qualcuno lo pone come il Fatto Quotidiano, come il gaffer di Palazzo Chigi. Pierluigi Battista sul Corriere della Sera: la verità raccontata da Polillo e i ministri in confusione tecnica. Dunque aveva ragione Polillo, il governo si stava davvero apprestando a tagliare di un punto l'IRPEF sui redditi bassi. Ma durante la trasmissione Ballarò, Polillo si era ben guardato ad aggiungere che l'IVA sarebbe aumentata di un punto. Mentre Stefano Feltri, a pagina 3 del Fatto Quotidiano: altro che gaff, Polillo è il ventriloquo di Monti. Monti non mi ha chiamato, ma io ho soltanto detto che poteva esserci il taglio dell'IRPEF nella legge di stabilità e il taglio è arrivato. Ora, commenta così Gianfranco Polillo, sottosegretario all'economia. L'accento romano, la fama di gaffeur, onnipresente in televisione, pensione a 20.000 euro da ex barone universitario, così lo definisce Stefano Feltri. Quelle di Polillo non sono gaffe in senso tecnico, diciamo che sono messaggi montiani depurati dalla retorica di origine gesuitica che permette al premier di spalmare concetti semplici quanto sgradevoli su decine di subordinate, così da neutralizzarli. Se Polillo continua a resistere impunito è perché le sue intemerate non sono gaffe, ma la versione volgare, nel senso di tradotta per il volgo, del montismo accademico. Dunque il Fatto Quotidiano la vede così, insomma, Polillo riesce a tradurre in parole povere quello che in realtà Monti poi pensa e fa, e i tecnici fanno. Vabbè, e comunque sulla legge di stabilità ci sono tanti tante sfaccettature, davvero il tempo è sempre poco e quindi dovete leggervi Il Sole 24 Ore, che ha tutti i dettagli. Io devo concentrarmi sull'altra notizia più importante sui giornali, vale a dire il terremoto giudiziario che coinvolge ancora una volta la regione Lombardia, ma anche la regione Lazio. Soprattutto però i giornali si concentrano sulla regione Lombardia, con l'arresto di un assessore, Domenico Zambetti, l'assessore alla casa. E ci sono anche una marea di intercettazioni davvero incredibili. Avrebbe comprato voti dall''ndrangheta con una spesa di 50 euro a voto per 4.000 voti, quindi un totale di 200.000 euro. Ci sono queste intercettazioni che trovate un po' ovunque sui giornali di questi mafiosi che dicono: ah, Zambettino, Zambettino, le corna sue, all'inizio si è fatto un po' i cazzi suoi, ma adesso ha pagato, e quanto gli è costato a lui, chiedono nell'auto imbottita di microspie i complici di questo affiliato all''ndrangheta. E lui, grazie a questi spiccioli, è stato eletto, altrimenti chi lo eleggeva? Sa quanti voti prendeva lui? 6.000, 7.000 voti, invece ne ha presi 11.500, arrivatigli da questa gente. E poi dice avrà pagato sui 200.000 euro. In un'altra intercettazione viene anche minacciato, nel senso che la trovate questa in pagina 2 di Repubblica, ma sono un po' pubblicate tutte uguali le intercettazioni. Ah, hai visto che ha pagato quel pisciaturo di Zambetti, altrimenti lo facevamo saltare per aria senza di noi, sai chi lo eleggeva? Insomma, accuse pesantissime che fanno titolare molti giornali l''ndrangheta entrata nel pirellone. E la situazione per Formigoni, che pubblicamente continua a dire: io non mi dimetto, sono accuse gravi, ma la responsabilità è personale. Ha subito tolto le deleghe, ha assunto ad interim le deleghe dell'assessore Zambetti per lui. In realtà Formigoni viene definito davvero in bilico, oggi più che mai, da tutti i giornali. Formigoni al bivio tra voto e rimpasto totale, così titola per esempio a pagina 5 il Corriere della Sera. Ieri avrebbe radunato i suoi assessori, scrive in questo articolo Elisabetta Soglio, e avrebbe detto: o la magistratura sta commettendo un errore clamoroso, Zambetti ha tradito me e ha tradito tutti voi. Avevo chiesto per due volte agli assessori se avessero la coscienza libera e se fossero disposti a fare gli assessori per esclusivo vantaggio dei cittadini, e di fronte alle mie insistenze personali mi era stato garantito che tutto era rigorosamente conforme alla legge. Cioè, un Formigoni arrabbiato. C'è la Lega che deve decidere, e ieri c'è stata una riunione e oggi Maroni si esprimerà se far mancare il sostegno allo stesso Formigoni, che però politicamente mette in atto un ricatto politico. E da qui ripartiamo dopo il traffico. Se cado io faccio cadere Cota e Zaia. Questo sarebbe il ricatto politico di Formigoni, e cioè, visto che la Lega tiene in piedi la maggioranza in Lombardia, allora il Popolo della Libertà dovrebbe far cadere i governatori di Piemonte e Veneto se loro fanno cadere me. Questa è la linea del PDL, ho sentito Berlusconi. Questa è una frase attribuita a Formigoni che trovate sul Fatto Quotidiano a pagina 5. Sta di fatto che davvero le intercettazioni, anche l'elenco di tutti gli indagati in Lombardia, quella che viene definita da Marco Alfieri in una pagina della Stampa, dove c'è anche un'interessante infografica con tutto l'elenco degli indagati in Lombardia, la peste nera del Pirellone. Degli 80 consiglieri, 14 sono sotto inchiesta, nei guai anche il governatore, 5 assessori. Insomma, farebbe ridere, scrive Alfieri, se non fosse uno tsunami la fine dell'innocenza, l'accusa di infiltrazione d''ndranghetista ai piani più alti di un esponente mai mossa ad un esponente politico lombardo. Ma poi basta scorrere l'elenco alfabetico e troviamo l'assessore leghista Belotti, il collega di partito Boni, il trota Renzo Bossi, ex consigliere, indagato per rimborso elettorale, la new entry Massimo Buscemi del PDL, il genero di Daccò, indagato per peculato e truffa aggravata, una pattuglia PDLina che prosegue con Angelo Gianmario, Romano La Russa, Franco Nicoli Cristiani, Nicole Minetti, poi Penati, ex capo segreteria di Bersani, la vicenda inquietante di Massimo Ponzoni, ex assessore arrestato per il clac della società Pellicano. Insomma, un elenco sterminato di consiglieri che hanno a vario titolo guai giudiziari, tanto che il Manifesto intervista Giulio Cavalli, anche lui è un consigliere regionale, è un attore eletto per l'Italia dei Valori, ed è sotto scorta perché lui ha portato vari spettacoli in giro per l'Italia denunciando le collusioni tra mafia e politica, e si ritrova sotto scorta. E oggi intervistato da Luce Manara sul Manifesto a pagina 4, intanto si ironizza così: Giulio Cavalli è l'unico politico che viene accompagnato dai carabinieri non per uscire ma per entrare alla regione Lombardia, visto che è scortato. E ho subito varie minacce, dice Cavalli. Nel 2009 portavo in scena uno spettacolo, hanno trovato pallottole fuori da un teatro, altre minacce fatte direttamente da un boss in tribunale, mi ha detto che me l'avrebbe fatta pagare. E ora, commenta Giulio Cavalli, la cosa che mi fa più male è che le persone che mi hanno rovinato la vita in questi ultimi anni dialogano con un assessore che siede poco distante da me in aula. Qui siamo alle macerie democratiche. Certo, se uno va in Lazio, succede che invece il capogruppo dell'Italia dei Valori, su cui già si ironizza, dopo Batman c'è anche Robin alla regione Lazio, per carità, accuse tutte da dimostrare, ma il capogruppo dell'IDV avrebbe sottratto 780.000 euro con anche contatti con faccendieri di soldi pubblici. Antonio Di Pietro, scioccato, secondo il Fatto Quotidiano, era come un figlio. Anche se Mattia Feltri sulla Stampa ironizza il talento di Tonino nello scegliere le persone sbagliate, anche qui ha litigato con Elio Veltri, ha litigato con Pietro Mennea, con Giulietto Chiesa. Valerio Carrara, senatore eletto nell'Italia dei Valori nel 2001, dopo 20 minuti di legislatura passò con Berlusconi. E poi c'è Scilipoti, Antonio Razzi, Sergio De Gregorio, che abbandonò l'Italia dei Valori, Americo Porfidia, si iscrisse a Noi Sud 2 mesi prima di Razzi. Insomma, a tradirlo sono sempre le persone che sceglie, il talento di Tonino nello scegliere le persone sbagliate. Trovate il commento di Mattia Feltri a pagina 7 della Stampa. Forse ha ragione il Giornale quando titola "Qui viene giù tutto". Il direttore Alessandro Sallusti scrive: mi ricorda la situazione di Tangentopoli, ogni sera in redazione a fare l'elenco delle persone che sono state arrestate. Allora, intanto gioco facile per Beppe Grillo, che ha fatto questa impresa sportiva. Aldo Cazzullo gli dedica una pagina: Grillo sbarcò in Sicilia a nuoto, prima di me arrivati solo mafiosi, una traversata show dello stretto con la gente che grida "attento, ci sono i barracuda", ma lui è partito, è arrivato e ha iniziato la campagna elettorale. Bella intensa la pagina anche ironica di Aldo Cazzullo sul Corriere della Sera, la trovate a pagina 18. Devo andare velocemente perché devo raccontare 2 notizie relative al Milan. La prima la mette in prima pagina il Secolo XIX. Berlusconi sarebbe pronto a vendere ai magnati russi. Giovanni Palombo, che di solito fa il retroscena della politica legati a Silvio Berlusconi, in prima pagina: un magnate russo, proprietario di miniere al di là degli Urali, che controlla la squadra dell'Amkar Perm, e un magnate ucraino avrebbero fatto pervenire delle offerte a Silvio Berlusconi per acquistare il Milan. E secondo il Secolo XIX, Berlusconi sta vacillando. L'offerta sarebbe consistente: 500 milioni di euro per acquistare all'inizio il 30% delle azioni, quindi entrare come azionisti di minoranza. Ma nell'accordo verrebbe inserita una clausola che permetterebbe al possibile compratore di aggiungere un altro 21% di azioni nel giro di pochi anni, e quindi arrivare alla maggioranza, 51%. Il Milan ai russi, mentre la Gazzetta dello Sport titola in prima pagina "Ibra al Milan". Che uno dice no, ma che si sono la Gazzetta di 2 anni fa. No, Ibra al Milan. Secondo la Gazzetta, Ibrahimovic è pronto a tornare. Avrebbe detto: io volevo stare a Milano, pare che non stia bene a Paris Saint-Germain, e ha detto: se serve torno. E Berlusconi pare che abbia detto a Galliani: vai e riportalo al Milan. È scattata anche l'operazione Guardiola, cioè cercare di prendere Guardiola. Ecco, finalmente, alla fine, la vera bella notizia forse è questa. Ci sentiamo con gli ospiti politici, a iniziare da Luis Durvalder, dopo il GR delle 8.